ovviamente, benvenuti alla diretta di questa sera, giovedì 16 aprile 2020, famigerato 2020, sono le 19.03 e io sono Nina e qui abbiamo... Anche 8 Hertz. Ciao a tutti, buonasera. Come avete potuto sentire, intuire dalla sigla, il nostro espanso 8 Hertz ha deciso appunto di aprire con il jingle della trasmissione. Questa è una joint venture, direi, nel senso è quel che rimane della Brusca assieme a invece il tuttora esistente programma che va in onda tutti i giovedì alle 21. Ma la Brusca si spera che rientri, insomma, no? Ritorni. La Brusca rientrerà appena finita l'emergenza, come dicevamo la volta due settimane fa quando abbiamo fatto l'altra diretta, e perché abbiamo bisogno, io e la Nenia, di stare braccio a braccio, guardarci negli occhi quando dobbiamo parlare delle nostre cazzate, delle nostre tresciate e ovviamente di linguistica. Sì, no, infatti poi riniziate presto perché io, come ben sapete, mi piace fare tanto le trasmissioni solo soletto, quindi... State dando un po' di fastidio, ecco. Bene, allora questa sera la diretta la condurrà solamente 8 Hertz e Nina se ne va. Ciao a tutti. Bene, se n'è andata. Quindi così. Non so neanche di cosa voleva parlare stasera, sul tempo. Su che tempo che fa, no? Su cos'era? Digliene. Non intervisteremo di certo Fabio Fazio questa sera. No, non è vero, non me ne vado, non potrei mai. Anche perché siamo a debita distanza, ma nella stessa regia, in una delle tane del Wombat sparse in giro per la città. Chissà dove siamo. Sì, ha detto bene 8 Hertz, questa sera il tema sarebbe il tempo. Perché? Perché in questi giorni lo stiamo tirando in ballo spesso, soprattutto lo stiamo maledicendo, insomma, dal momento che il tempo in questo periodo non vola di sicuro e ci troviamo soprattutto ad ammazzarlo il tempo. Quindi, diciamo, per quella parte legata alla linguistica, alle espressioni, questa sera la bruschetta al 50% parlerà di modi di dire sul tempo. E che dire, mala tempora currunt, e il detto si completa con un bel sed peiora parantur, ovvero viviamo in tempi meschini e probabilmente ci si sta palesando qualcosa di altrettanto brutto, se non addirittura peggiore, come dice il detto. Io ovviamente, da inguaribile ottimista, per un paio d'ore al giorno mi augurerei, ecco, che questa locuzione latina non si applichi in realtà, ecco. Però, abbiamo qualche notizia legata a questi malatempora currunt, perché si sa, dall'inizio della pandemia, dall'inizio della reclusione, del lockdown, le carceri italiane stanno vivendo veramente tempi meschini, e le rivolte che sono scoppiate proprio con l'inizio della pandemia, quindi dopo il 9 di marzo, in realtà si sono arrestate. Non si sa, più che quello che non si sa in realtà è che cosa sta succedendo dentro le carceri di tutta Italia. E magari dopo un pezzo che il nostro caro 8 Hertz si sta prodigando a mettere nel mixer della regia, parleremo di un caso veramente vergognoso successo a Firenze per Pasquetta, ma anche di quello che sta succedendo a Santa Maria Capua Vetere a Caserta. Vadi col pezzo, musica maestro. We'll be right back. Loro erano i Porno for Pyros e il pezzo si chiama Sadness, è il pezzo di apertura del disco. Tra l'altro ne hanno fatti solo due, è un gran peccato perché sono veramente tutti e due stupendi. E chi sono Porno for Pyros? Sono un gruppo di Los Angeles, erano un gruppo di Los Angeles che ha agito negli anni 90. Formato da Perry Farrell e Stephen Perkins, che erano i due dei Jane's Addiction, un gruppo super storico, un po' crossover, un po' hard rock, un po' tutto. E Perry Farrell appunto era la voce e la mente, Stephen Perkins alla batteria. Loro due fecero questo progetto che è molto molto bello, suonato veramente divinamente, e ogni suono è proprio costruito alla perfezione. C'è stata una scelta sia stilistica che tecnica di ogni su una cura su ogni tipo d'aspetto. Insomma, oltre a loro due, il gruppo era composto anche da Peter Di Stefano alla chitarra magica e Martin Lenoble al basso. Peccato. E il primo disco si chiama appunto Porno for Pyros, omonimo, del 1993. Quello dopo è Good God's Urge del 96, con arie un pochino differenti, più da surfista rattristito. Che qui mi picchiano. E quindi poi si sono sciolti nel 98. Scusate, continuerò sempre nella vita a dare le dentate sul microfono. E vabbè, iconico per rifare, se volete qualcosa che insomma vi faccia pigliare bene, ascoltate Porno for Pyros, ascoltate anche Jane's Addiction, ma soprattutto fate un giro, googolate per rifare, guardatevi i concerti dal vivo, perché sono veramente qualcosa di come posso dire, che danno un po' uno sprint diverso alle giornate, dal momento che insomma tra le mis che avevano, il casino che facevano, le posizioni che assumevano mentre suonavano e soprattutto mentre Perry Farrell cantava, insomma ve lo consiglio, sicuramente sarete in grado di svoltare una giornata un po' triste, un po' abbacchiata. Ci arrivano dei messaggi qui in regia. Noi ringraziamo tanto i nostri uditori che ci dicono che c'è stata una bella intervista sulla situazione, sembrerebbe, Santa Maria Capua Vetere, a Bello come una prigione che brucia, lunedì su Blackout, quindi suppongo che si possa tranquillamente riascoltare una replica, un podcast. E sempre a tema carceri, domani alle 18 nel palinsesto di Radio Wombat c'è uno speciale sui CPR, quindi sintonizzatevi e cerchiamo insomma di utilizzare questo tempo così dilatato che abbiamo a disposizione anche per guardarci intorno e per capire che cosa sta succedendo in uno dei luoghi più tristi e disumani che l'essere umano appunto sia stato in grado di inventare. Parlavamo del Panopticon la settimana scorsa e, scusate, due settimane fa, e anche ora insomma ci sembra giusto e doveroso sottolineare quello che sta succedendo nelle carceri italiane. Dunque, l'associazione Antigone proprio ci parla di questi malatempora, perché sembrerebbe che in Santa Maria Capua Vetere siano stati torturati alcuni detenuti. C'è sempre quest'ombra di dubbio nel parlare di queste tematiche. Dicono se questi racconti sono veri, ma a quanto pare lo sono, perché tra il 7 e l'8 aprile proprio l'associazione Antigone ha ricevuto numerosissime segnalazioni su violenza avvenute proprio nel carcere in provincia di Caserta. E ci sono state verifiche legali, ora io sto leggendo una fonte che si chiama ristretti.org, che è Ristretti Orizzonti, in realtà il blog e il sito di Ristretti Orizzonti, in cui ci sono tantissimi spunti informativi legati appunto alla situazione del carcere, cd, libri, ma si parla anche di Morire di Carcere, dell'avvocato di strada, della sua figura, della sua promozione, e c'è un forum per la salute, uno sportello giuridico e tanto altro. Insomma, il 7-8 aprile si sono registrate queste segnalazioni di numerose violenze. E poi parte una cronologia ovviamente degli eventi. Il 5 aprile tra i detenuti del reparto Nilo si diffonde la notizia di un detenuto che è stato messo in isolamento con febbre alta, affetto probabilmente, e poi in realtà stata verificata questa cosa da ovviamente Covid-19. Quindi la notizia ha generato ovviamente ansia e paura, e questo ha ovviamente innescato una protesta. 150 detenuti su 400 danno vita alla battitura delle sbarre, e nella terza sezione del reparto Nilo arrivano invece a barricarsi addirittura dietro una barriera di brande, chiedendo ovviamente che venissero distribuiti igienizzanti e i dispositivi di protezione che tutti noi utilizziamo, quindi maschere e guanti. La protesta era ovviamente pacifica e si è spenta alla sera. Non ci sono stati, non ci sono state sommosse come quelle avvenute verso metà marzo. Noi ricordiamoci, per esempio, anche nel carcere di Modena sono morte 6 persone, a quanto pare, per una presunta overdose da metadone. Anche questo ci fa un po' riflettere, no? E insomma, questa protesta pacifica si è spenta alla sera con la promessa di un colloquio con il magistrato di sorveglianza, ma il giorno successivo questo colloquio ha luogo, quindi, e una volta che il magistrato se ne va, tra le 15 e le 16, 400 agenti di polizia penitenziaria entrano nel reparto in tenuta antisommossa, con i volti coperti dai caschi, e in gruppi da 7 entrano nelle celle, a quanto pare prendendo a manganellate, schiaffi, calci e pugni i detenuti. Quindi c'è stato questo primo pestaggio, i detenuti poi sembrerebbero essere stati trascinati in corridoio, costretti alla fuga verso le scale e quindi passati nell'area, diciamo, dedicata al passaggio. Chi cadeva veniva colpito nuovamente, mentre altri venivano perquisiti, venivano fatti uscire dalle celle e venivano perquisiti. Una volta poi denudati sarebbero stati insultati e pestati. Dopo il pestaggio poi i detenuti sono stati costretti a radersi barba e capelli, e operazione finita, alcuni sono stati messi in isolamento mentre altri sono stati trasferiti in altri istituti. Che cosa è successo poi? Che nei giorni a seguire le telefonate non sono state consentite. A quanto pare ora nelle carceri, una buona parte delle carceri, sembrerebbe che l'ora d'aria viene negata e si ha a disposizione solamente 10 minuti per una telefonata alla settimana, pagata ovviamente o dal ricevente o da, dal detenuto stesso. E quindi invece i detenuti che potevano telefonare hanno ricevuto minacce in caso avessero raccontato gli eventi, ovviamente. E sembrerebbe che ci sia anche poi omertà da parte dei medici, che hanno messo dai referti i segni delle violenze. Questa è la ricostruzione dell'associazione Antigone, dove si ritrovano persone massacrate di botte, svenute nel sangue o che urinano sangue, con traumi cranici, costole e denti rotti. È stato presentato un esposto in procura e l'associazione ha chiesto che i fatti in questione, se confermati ovviamente, vengano qualificati come tortura commessa da pubblici ufficiali, come ovviamente previsto dall'articolo 613 bis. E quindi siamo di fronte a una rivolta pacifica che è stata ovviamente soffocata con l'autorità e con tantissima violenza. Quindi questo è il tema iniziale, no, dei nostri malatempora currunt, e a quanto pare sed peiora parantur, ecco. E sempre a proposito di questo, invece, ora vogliamo deliziarvi, qua ci starebbe un bel sottofondo allegro, ma vorremmo deliziarvi con anche il racconto della grigliata a Sollicciano. 40 agenti senza mascherine, senza guanti, si sono divertiti proprio a quanto pare sotto gli occhi anche dei detenuti a fare una bella grigliata a base di ciccia e birra, schiamazzi e risate nel carcere, nel cortile esterno, senza rispettare nessuna norma di sicurezza e ovviamente senza chiudendo anche la strada, a quanto pare. Si dice addirittura che le persone che abitano nella zona, sentendo questo odore strano di fumo, di brace, non si sa, pensavano ci fosse una rivolta nel carcere. Chi è andato in strada a accertarsi della situazione, a chiedere che cosa stesse succedendo, ovviamente è stato fermato da un blocco. E i sindacati, come per esempio mi sembra la UIL dell'istituto penitenziario e anche il cappellano, per esempio, altri sindacati hanno semplicemente detto sì, è stata commessa una leggerezza, però effettivamente questi agenti addirittura mangiano in mensa insieme, per cui sono costretti al contatto fisico tra di loro, e quindi insomma hanno cercato un po' di minimizzare la cosa dicendo vabbè, che volete, questi vivono assieme giorno e notte qui dentro e se fanno una grigliata non succede nulla di male. E allora, visto che il sole sta tramontando, mettiamo un altro pezzo un pochino positivo, diciamo, per quanto riesca a metterli. Vi farò sentire un disco molto particolare che è di Alan Vega insieme a Alex Chilton e Ben Vaughan. Si chiama Cubist Blues del 1996. Praticamente, vabbè, Alan Vega, ora non vi sto a spiegare chi sono tutti perché è lunghissimo. Comunque, Alan Vega è cantante dei Suicide. Poi, tra l'altro, è stata fatta anche proprio una retrospettiva sui Suicide in Tonight Alive. Quindi lì ci sono informazioni su un po' tutto. Quindi potete anche ascoltarlo sul podcast. Ricercate Suicide, scrivete sul search della radio e troverete anche quella puntata di Tonight Live. Comunque purtroppo ci ha lasciato nel 2016. Gli altri due non, Alex Chilton è morto pure lui, però era molto vecchio perché era nato nel 1950 a Memphis, era quindi super, vabbè, insomma, era, sì, è vero. Comunque di Memphis. Quindi era super rock, chitarrista e produttore, e anche Ben Vaughan in realtà, anche se ha agito di più negli anni 80, ha avuto una carriera solista e di produzioni. Tra l'altro non so bene, magari devo chiedere a Nina cosa vuol dire, perché ho letto tra un po' le note che era fissato con i Rambler, che non so cosa sia, ma riguarda il mondo dei motori, di automobili. Credo che vivesse parecchio in macchina, e tra l'altro appunto un disco suo che si chiama Rambler 65 ha registrato interamente dentro la sua macchina. Nel grande, insomma. Va bene, ascoltiamoci un brano da Alan Vega, Alex Chilton e Ben Vaughan da Cubist Blues. Il pezzo si chiama Fat City. scrive. So there's that unemployment line staring at me. That seems like it. And they call this Fat City. Fat City. Fat City. Fat City. Yeah, fingers lame, baby. Fingers lame, baby. Face in the ass. Again and again. Fat City. Che super pezzo, davvero. È veramente come si chiama l'album, un blues cubico, cubista, cubico e cubista. E, tra l'altro, no, è interessante farvi notare, leggendo un po' i credits dell'album, che a parte Alan Vega che canta in ogni pezzo, gli altri due si dilettano a suonare tra pianoforte, batteria e chitarra, un po' intercambiandosi, quindi potete scoprire anche i loro vari stili, diciamo, all'interno di tutto l'album. Vive Suicide, viva Alan Vega, e questa sera iniziamo vabbè, notizie non troppo prese bene, ma la musica invece, insomma, che vi vogliamo, che vi stiamo trasmettendo, speriamo invece che ve la faccia prendere molto molto molto bene. E la musica che un po' ci aiuta, ci salva in questo tempo lento, no? Questo tempo che non vola, che cerchiamo di ammazzare in ogni modo. E che cosa ci stiamo sentendo dire durante questa quarantena, no? Che questo tempo va riempito, quindi il famoso detto per cui il tempo è denaro, e il dovere che ci insomma, come dire, occupa buona parte delle nostre giornate, anche in un momento di stasi come questo, dovrebbe riempire ogni momento della vita, no? E quindi non abbiamo diritto all'ozio, non abbiamo diritto alla pigrizia, e ce lo dicono in tantissimi. Se fate un giro nel web, sui giornali, vedrete un sacco di spunti per occupare ogni singolo minuto della vostra giornata con cucinare, fare ginnastica, occuparsi di un sacco di cose. E invece sarebbe bello potersela prendere anche con un pochino più di tranquillità e cercare anche, perché no, di godere della pigrizia. Da che pulpito, io che non sto fermo un secondo, insomma. Perché tutto questo? Perché la nostra idea di tempo è legata all'unità quantizzabile, misurabile, e quindi è legata all'idea di produttività, come tutti noi sappiamo. E però prima di cominciare con tutti i detti legati al tempo, facciamo un salto nel passato, quando il tempo non era esattamente questo, non era unico, ma era addirittura trino. E quindi questa nostra idea moderna di tempo come unità quantizzabile e misurabile, legata all'idea di produttività, nella mitologia e nell'antica Grecia, madonna, mi sento decrescenzo, e non esisteva. Perché? Perché il tempo per i greci era ovviamente tiranno, quindi era Cronos, era Kairos, ed era anche, se non sbaglio, non era Aries, ma era un qualche cosa del genere che ora mi sfugge. E per questo che si dice, no, che il tempo è tiranno, perché nell'antica Grecia il tempo era stato identificato nel titano Cronos, che era il padre di Zeus e quindi il colpevole di tutta la genesi poi della, diciamo, delle divinità dell'antica Grecia. E l'espressione "il tempo è tiranno" significa proprio che il tempo che trascorre è inesorabile, non può essere fermato e non esiste nessuno in grado di poterlo comandare. E questo è un aspetto, no? Quindi il tempo proprio spicciolo. E poi invece abbiamo anche Kairos, che era invece legato all'occasione, al tempo fruttifero, al tempo che ci si può godere e soprattutto che si deve utilizzare per avere, come dire, spunti positivi nella propria vita. Però Kairos nella mitologia greca ovviamente è un perdente, perché l'uomo ha sempre preferito seguire la logica del tempo e quindi quella di Cronos. E poi vabbè, c'era questa concezione più o meno come quella che abbiamo noi oggi di lineare, no, del tempo, che è legata alla successione delle stagioni, degli anni. E poi abbiamo anche una visione quindi ciclica. E però poi col passare del tempo si sono affermate altre convinzioni, quindi il tempo legato alle stagioni, il tempo che ritorna perché è finita una stagione e inizia un'altra, e quindi questo tempo ciclico è quasi infinito, è il famoso, diciamo, concetto del tempo circolare e del tutto scorre. Quindi insomma, questa lezioncina di filosofia e mitologia greca mi sembrava necessaria, insomma, per iniziare a parlare di quello che è il nostro tempo. Thank you. abbiamo un piccolo problema tecnico e ci prendiamo 2 minuti per risolverlo, quindi se non sarà di uova non ce la riusciamo a qualcos'altro, ma ci risentiamo presto. Scusate, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ma è stato subito risolto come tra le migliori radio internazionali. Comunque, se vi piaceva il pezzo, purtroppo era un pezzo super ripetitivo e appunto per la legge di Murphy, dove si interrompe la musica quando c'è un bel pezzo ripetitivo. Comunque, loro erano gli The School Defects, con le 2 K, The School, prima K, The Fax, la seconda. Sono un gruppo svedese che ha agito tra il 2005 e il 2018, appunto come potete sentire facevano tra l'hypnotic rock e l'avant, e poi in realtà hanno fatto tantissime cose, anche dei gruppi, dei dischi rumoristi ancora più sperimentali, di anche elettronica, diciamo, o Fields Recording, insomma hanno fatto veramente tanta roba. Questo era allora, come si chiamava questo pezzo? Anoli Drums Are Singing, bellissimo, tratto dall'album Blood, Spirits and Drum Are Singing, no, detto? Sì, ok. Che uscì nel 2007 per Knight Disc, insomma una roba lì. Comunque lo potete trovare su Discogs, hanno fatto tanta roba, ma è uscita anche per etichette molto molto fighe come la Important Records, la Conspiracy Records e la Thrill Jockey. Ecco, ora per non t'allargare troppo e fa sempre così, anche quando c'erano le dirette della Brusca, il nostro Otto Hertz spalancava la porta della regia e iniziava a interagire quando non doveva. No, a parte gli scherzi, grazie a Otto Hertz per questa join. Scusa, io sono una persona altamente qualificata invece, cioè cosa stai dicendo? Qualificato e soprattutto non polemico. E vabbè, lasciamo perdere i bisticci stile Casa Vianello e parliamo. Ho 5 minuti di tempo, mi dice, accidenti al cane. Allora, dicevamo, concetto di tempo che è denaro, no? Che spiega molto bene la concezione di una vita consacrata alla produzione di beni e al guadagno. E quindi il tempo dedicato alla produzione così quantificabile dei beni è ovviamente un qualche cosa da dover misurare. Perché? Perché è importante la percezione dello scorrere del tempo e della cadenza della vita umana regolata da questo, no? E qual è lo strumento per misurarlo? L'orologio, il quale è storicamente legato, pensate un po', alla creazione della locomotiva e delle stazioni ferroviarie di metà 800. È una storia strana, una storia curiosa questa, perché la locomotiva nel XIX secolo fa cambiare la percezione, oltre che dello spazio, anche del tempo. Tutti con la fretta. Quest'ultimo, quindi il tempo, a sua volta non è soltanto legato alla velocità di trasporto, no, dei treni all'epoca a vapore, ma anche all'ora assegnata dall'orologio che scandiva gli orari ferroviari e quindi gli scambi, le partenze e gli arrivi. E l'orologio, come lo conosciamo noi, nasce proprio in questo periodo proprio per scandire partenze ed arrivi. E la percezione del tempo, quindi, a partire dal XIX secolo, è stata... ha abbracciato una nuova ideologia che vede l'ascesa della classe borghese, l'efficacia del positivismo e la rivoluzione cosiddetta antropologica. E a noi però piacciono di più... quanto tempo ho ancora? 3 minuti e mezzo, pensavo. No, ma noi, a noi piacciono di più le cose etere, perlomeno a Nina e a Otto Hertz, quindi è più bello... parlare delle tante rappresentazioni dell'idea di tempo, no? Oggi l'ho presa sul filosofico proprio come 2 settimane fa, perché c'è una distinzione sincronica ma anche diacronica. E ci sono questi due livelli temporali che interagiscono. E il tempo sincronico è quello che è suggerito dalla cosiddetta percepibilità del movimento, no? Quindi un tempo è oggettivo e ciclico, è legato agli anni, alle stagioni, ai ritmi della vegetazione, ed è il tempo del divenire del mondo, come ci racconta un bellissimo articolo dell'Istituto Euro-Arabo. E quindi la mancanza di senso e il caso dominano questo tipo di tempo, no? Invece il secondo, quello diacronico, postulava l'eternità, quindi l'astrazione assoluta con cui si cercava di fermare il tempo, di trovare un senso all'esistere. E se nel tempo quotidiano, insomma, trionfava il divenire con il suo avvicendarsi di eventi, di dissoluzioni, nell'eterno regnava e regna tuttora invece l'immobilità, dove l'essere non cambia e non muta. Quindi questi due livelli temporali corrispondono alla gerarchia di Platone, quindi la realtà immutabile, le idee, la contemplazione, e invece quello relativo poi del mondo più pratico, dove l'uomo interagisce con quella che è la sua temporalità. E come vedevamo prima, nel pensiero classico erano contemplate entrambe le divisioni del tempo, diciamo diacronica e sincronica, e però non erano separate, tant'è vero che all'origine del tempo è Cronos ma è anche Kairos. E quindi questo è un po' il sunto, diciamo, iniziale. Allora, brano successivo, stando un po' nell'epicità, faccio sentire gli Swans, che vi ho fatto sentire più volte, con il brano del disco di quando si sono riformati nel 2010, che si chiama My Father Will Guide Me Up Rope to the Sky. E tra l'altro era un brano con il quale aprivano ai concerti, mi ricordo li vidi a Bologna, fu un concerto spettacolare, veramente a volumi estremi, secondo me molto più dei Sun. Insomma, ci suona un sacco di gente, tra l'altro, tra cui appunto Thor Harris, che è questo percussionista con le campane tubolari e tantissime altre cose, che sembra proprio Thor, il personaggio dei fumetti e la divinità, diciamo. E ci ha suonato Bill Refflin, che ahimè è morto pochi giorni fa. E poi ci ha suonato il primo chitarrista degli Swans della prima fase di Cop, il batterista dei Cop Shot Cop, insomma. Quindi c'è veramente una grossa fetta di musicisti particolarmente cattivi, anche ignoranti. E il concerto iniziava così e il disco inizia così, ma con il brano No Words, No Talks, che è uscito nell'album My Father Will Guide Me Up Rope to the Sky, che uscì per la Young God Records, come un po' tutte le cose degli Swans, quantomeno ristampate. Buon ascolto, sentite come picchia. E se alzate il volume potete rimanere anche sordi. that man. He died in a man. I love soul of man. I love heart of man. He died. That man, zero, zero man. Eccoci dopo gli Swans per continuare a parlare un po' di tempo, che è un concetto abbastanza strano, no? E di tempo ne hanno parlato in tantissimi, ne ha parlato ovviamente Platone, ne ha parlato Aristotele, Sant'Agostino, Leibniz, eccetera, eccetera, Chomsky. E però è bella questa, noi siamo incatenati, no, in questo tempo, ed è bello pensare come il tempo si relazioni e si rapporti con l'eterno. Noi ora abbiamo la nostra dimensione umana dell'eterno, no? Nel senso che ci sentiamo confinati in questi spazi di casa angusti e in questi tempi, però l'eterno è tutt'altro. Ovvero, l'eterno insinuava il dubbio che il relativo temporale umano fosse soltanto un inganno o un sogno. E quindi il tempo oggettivo del corso degli astri, il tempo come misura del movimento, secondo la definizione di Aristotele, poi si affiancava alla consapevolezza del versante soggettivo, quindi dell'uomo, che coincideva con la, nella coscienza umana, il pulsare della vita e tutti i ritmi variabili. Quindi da un lato, vabbè, Platone pensava che il tempo fosse l'immagine mobile dell'eternità, quindi la sua traduzione, no, sul piano sensibile, e invece per Aristotele il tempo era un aspetto strettamente connesso con la realtà fisica dello spazio. Viviamo il tempo perché ci sono i luoghi, e quindi se lo spazio è il luogo, quindi la cosiddetta qualità posizionale degli oggetti materiali del mondo, il tempo è l'ordine misurabile del movimento degli oggetti. Anche noi lo siamo. Poi vabbè, abbiamo anche Sant'Agostino, che non ha mai tentato di oggettivare in maniera così razionale il tempo, voleva semplicemente riflettere su quella famosa frase che secondo me è stata anche imputata a Jim Morrison, tra le tante cose, tra cui anche la ricetta del cacciucco, che il passato non è più e il futuro non è ancora. Quindi l'annullare il tutto nel non essere, o esattamente nel presente, che è estremamente fugace, perché ora lo dico e ora non c'è più. Quindi un po' legato anche alla teoria della loop quantum gravity, più o meno, no? Dove il tempo non è un concetto utile quando si studiano le strutture generali del mondo. È un bel concetto che non ho avuto tempo di approfondire, ma che se qualcuno di voi ha la curiosità di farlo, insomma, lo faccia e vada. È la teoria del loop quantum gravity. E il tempo poi è anche antropologia, perché per esempio diciamo che, aspettate che mi sono un attimo persa, devo ritrovare questa cosa nella scaletta. Sì, che tra la fine dell'Ottocento, quindi facciamo un mega salto, e prima del Novecento, gli antropologi hanno cominciato a considerare due tipi di dimensioni temporali, una più o meno, come dicevamo prima, una lineare e una ciclica, quindi dove le sequenze di periodi si ripetono potenzialmente all'infinito e sono scandite da eventi ricorsivi generalmente umane, quindi legate al ciclo dei lavori di sussistenza o al carattere religioso. E tutto ciò che è preindustriale viene definito come primitivo nella, generalmente, insomma. E le società primitive erano caratterizzate da una dimensione temporale ovviamente ciclica. Cioè la rappresentazione del tempo era rispecchiata nella vita collettiva, appunto perché c'erano queste manifestazioni di carattere religioso, per esempio, o le attività di sussistenza, come dicevamo prima. E quindi il tempo veniva percepito da queste popolazioni come qualcosa di qualitativo, no? Quindi e ancora oggi, insomma, in antropologia si ritiene che il senso di un tempo non quantizzato, ma carico però di significati speciali che noi gli diamo, esista praticamente in tutte le società, o perlomeno le società che hanno bisogno di rievocare, no, periodicamente ciò che considerano un fondamento della propria esistenza. E da un lato ovviamente questo ha a che fare con la religione, cosa di cui noi non parliamo mai troppo volentieri, ma finché è una religione mitica ci può anche stare. E ci sono appunto i miti dell'eterno ritorno, che è una cosa molto, molto interessante. E quindi poi, oltre all'antropologia, c'è l'etnografia, che parla del tempo del pensiero diacronico di tante culture primitive. Addirittura in alcune società il tempo era concepito in maniera puntiforme e i riferimenti non corrispondevano a delle frazioni di flusso quantificabili come le ore, quindi che sono omogenee, che sono tutte uguali, però erano legate ad eventi naturali, per esempio sociali o a stati fisiologici. Pensiamo, che ne so, anche i Maya, era così anche per loro. E i membri di queste popolazioni usavano categorizzare il tempo, per esempio, in due raccolti fa, per indicare che un determinato avvenimento era successo 2 anni prima, con la rotazione erano 2 anni, oppure un sonno per indicare il giorno precedente. Lo fanno per esempio i Tiv della Nigeria, che collocano gli eventi nel tempo facendo riferimento all'organizzazione, per esempio, dei mercati. E quindi se un Tiv vi dice che suo figlio è nato, per esempio, 2 mercati fa, si riferisce a probabilmente a un evento accaduto tra i 6 e i 10 giorni prima. È interessante questa cosa, no? Di come tutti noi abbiamo l'orologio, invece i Tiv hanno i mercati, insomma. Caro 8 Hertz, cosa ci metti ora? Master Musicians of Book Cake, il brano si chiama Schism Prism / Adamantios, che esce per Ushi, ora non mi ricordo, si trova appunto in Totem One, che è il primo disco di una trilogia, cioè ne hanno fatti 3. Intanto ve lo metto. E poi se ne parla. Thank you. grandissimi master musicians of Bookcake. Appunto, era, questo era un brano tratto dal Totem One della trilogia dei Totem, che poi, se vi capita, se vi ha appassionato il brano, era super psichedelico. E via via con i Totem, dal primo al terzo, hanno sviluppato la cosa sempre più come una sorta di world music psichedelica e malata, con una timbrica sempre più forte dal punto di vista proprio della musica etnica, per cui meno distorta e più etica, appunto. Tra l'altro, loro di Seattle, ma hanno ben poco a che fare con i gruppi che potete conoscere di Seattle, della scena grunge degli anni 90. E fondatore del gruppo è Randall Dunn, che è anche un mega produttore di musica, diciamo, indipendente, tra i quali Sun, Anna, One House, Wolves in the Throne Room. E ora ho letto proprio oggi che l'ultima produzione che ha fatto sono gli Algiers, quindi sono curioso di sentirli, che è un gruppo che sta andando molto a livello critico, nel senso che ha avuto critiche molto favorevoli e molto positive. È uscito per la Conspiracy Records e poi ristampato dall'Important Records. Sembra quasi che siano due etichette affiliate. Bene, bene, bene, grazie per la divulgazione musicale. Però ora è venuto il momento di ricordarvi volete fare delle lamentele? Abbiamo il posto giusto per voi, che è posta Wombat @ insiberia.net. Se stiamo dicendo cose troppo complicate, farraginose, noiose, ce lo potete dire, così come potete anche apprezzare, volendo, quello che state sentendo, che state ascoltando. E poi vi ricordiamo i vari social: Facebook Radio Wombat Firenze, Twitter radio-wombat-fi, se non sbaglio, e ovviamente il nostro sito di Radio Wombat, da cui molto probabilmente ci starete ascoltando o da cui scaricherete il podcast, ascolterete la replica. E vi ricordiamo che queste dirette fanno parte del palinsesto speciale dedicato a questo tempo che stiamo vivendo e che vi sa sorprendere non soltanto ogni settimana ma ogni giorno, perché abbiamo un sacco di cose nuove, tra trasmissioni speciali, dirette appunto, playlist, notiziari e tantissime cose, insomma, per esservi vicini durante questo periodaccio virulento. Dunque, il nostro Otto Hertz ha messo Master Musicians of Bookcake, ha parlato di world music, di musica etnica, di reminiscenze appunto di altri popoli, e quindi ora io vi parlerò dei Baulè della Costa d'Avorio. Potrebbe partire la musichetta di Quark, ma non ce l'abbiamo, che hanno, sempre a proposito del loro modo di contare il tempo, hanno adottato espressioni come, guarda caso, alle 2, alle 3. Però gli studi etnografici dicono che appunto i Baulè della Costa d'Avorio utilizzano queste espressioni per indicare la corrispondente posizione nel cielo e per rappresentare non tanto i punti esatti della giornata quanto le fasce di durata del giorno, quindi come se ci avessero praticamente una meridiana stampata in fronte, più o meno. E poi in tante società invece esiste una sorta di doppio regime temporale. Le società rurali, spesso, che sono poi state inglobate in sistemi attuali a base urbana e commerciale, in Pakistan per esempio, hanno adottato, oltre alle tradizionali forme locali di scansione del tempo, ovviamente il sistema calendariale degli organismi dominanti, quindi politico e statali. I Baluch o Baluch, agricoltori del Pakistan meridionale, come dicevamo prima, pensano l'anno in termini di stagioni e il giorno in fasi solari, quindi l'alba, il sole alto, il tramonto e la notte. E poi hanno addirittura visto che si diceva prima che secondo Aristotele il tempo si svolge e ha necessità di definire le sue trame nello spazio, hanno anche un sistema di ripartizione delle risorse idriche che si fonda sul calcolo del tempo a scorrimento dell'acqua nei canali artificiali. Sono dei mostri praticamente. E questo criterio di calcolo però è stato importato dall'India, quando gli imperatori Mogul hanno sottomesso i Baluchistan o Baluchistan nel corso del XVII secolo. E il computo del tempo era reso possibile fino a non troppi anni fa dall'uso elementare di congegne d'acqua che consentivano di ripartire in frazioni orarie il tempo giornaliero, un po' come si fa con la clessidra. La clessidra è piena di sabbia, invece il modo di contare e di quantificare il tempo dei Baluch si basa sull'acqua. È molto bellina questa cosa, non trovi? Poi vabbè, ci siamo noi della cultura occidentale che siamo invece molto meno fantasiosi, però qualche cosa, qualche elemento di folklore ce l'abbiamo, insomma. E per esempio il calendario popolare europeo individua chiaramente la funzione e la posizione delle festività non solamente religiose ma anche pagane. E il calendario popolare europeo ha una sorta di complessa dialettica tra le feste cristiane e le occasioni rituali pre-cristiane. E appunto il Natale, per esempio, poi vabbè, abbiamo il Carnevale che segue direttamente il Natale e che è la festa della comunità, diciamo un pochettino più legata al culto carnascialesco, appunto, e la festa dell'abbondanza, del riso e del divertimento, fino ad arrivare poi alla cattolicissima Quaresima, che viene vissuta come tempo di ovviamente tristezza e astinenza. La Quaresima e la quarantena, signori. La quarantesima. E non vorrei parlare troppo, però sì, mi fanno segno dalla regia musicale che posso andare ancora avanti. Bene, bene, bene. E queste rappresentazioni poi temporali sono però un po' diverse da quelle che vengono elaborate nella società industrializzata, dove, come dicevamo prima, il tempo è quantificabile ed è percepito come un rigido sistema di scansione della vita sociale. Quindi un tempo che è legato non soltanto alla socialità, ma alla tecnologia, alla moralità, all'elemento cognitivo. E quindi il tempo sarebbe misurato poi però anche con modalità astratte, concepito in un flusso continuo che è irreversibile ed è sempre progressivo, e fino a far diventare il tempo una risorsa, come dicevamo prima, perché il tempo è denaro. Ma questo non è l'unico detto: il tempo è tiranno, il tempo è denaro e mala tempora cur. Ci sono tante altre cose che utilizziamo quotidianamente nelle nostre espressioni, insomma, per maledire o apprezzare il tempo che ci viene dato. E ora, signor Otto Hertz. Il signor Otto Hertz vi declama il prossimo pezzo, che è, si intitola God Bless Our Dead Marines dei D. Silver Mount Zion. Stairs. Can no one be well, but Eccoci tornati in regia. Loro erano in realtà il nome corretto almeno di quest'album, perché poi hanno nomi a seconda del disco lievemente modificati. E in questo caso si parla di D. Silver Mount Zion Memorial Orchestra and Tralala Band. Loro chi sono? Sono un gruppo canadese di Montreal, in Quebec. E nascono un po' come costola dei Godspeed You Black Emperor, che sono stati insomma un gruppo di riferimento per una certa ondata di post rock o miliardi di derivazioni affini. E Silvermount Zion in realtà colgono più l'aspetto, diciamo, più folcloristico, musicale, per cui c'è anche una grossa orchestrazione di corde, diciamo, quindi di strumenti a corda ad arco, ecco, scusatemi. Per cui insomma praticamente sarebbero tanti di loro i Godspeed You Black Emperor, privati un po' dagli distorsori e più intimisti, diciamo. Il pezzo, allora, ora vi do i credits. Questo era il quarto album, si chiama Horses in the Sky, se vi è piaciuto questo lunghissimo pezzo, è quasi una suite, e il brano si chiama God Bless Our Dead Marines, uscito per la Constellation, come quasi tutta la roba loro e dei Godspeed, diciamo. Passo la parola alla regia. Alla regina, vorrei dire. Il toscano va via. Alla regia. Regia. E insomma, si parla di tempo, ma anche di tempismo, perché ovviamente mentre si fa un po' i cretini si fanno un po' di battute e ovviamente la regia smette di funzionare, insomma, quindi malediremo tutte le divinità della tecnologia, mai abbastanza. E non, anche quelle della non tecnologia, vai. Quelle sempre comunque, diciamo che nelle varie sfumature di bestemmie ora includeremo anche le divinità della tecnologia. Poi tra l'altro so che l'Accademia della Brusca, il programma di Nina e Nenia, ha fatto una serie di puntate sulle bestemmie, come discorso linguistico, sia mai. Sì, è stata, diciamo, la puntata con cui ci siamo congedate dagli ascoltatori per un po', e comunque se la volete risentire tranquillamente la trovate tra i podcast. E che dire, è brutto dire che dire, no? Siamo quasi al termine della diretta, manca un quarto d'ora, avremo sicuramente un altro paio di pezzi da mettere, e però insomma abbiamo parlato di divinità, abbiamo parlato di miti, abbiamo parlato di società cosiddette primitive, abbiamo parlato del tempo per noi poveri legati al consumismo, e ora farà un po' strano, ma ci sono anche i concetti di caldo e freddo legati al tempo, non legati alle stagioni. Ovvero Levi Strauss, filosofo, antropologo e anche linguista, anche, come diceva la signorina Silvani, anche poeta, nel suo Pensiero selvaggio, che è un'opera pubblicata, un saggio pubblicato nel 1962, nell'ultimo, anzi nel penultimo capitolo, parla del tempo ritrovato dei primitivi, ovvero afferma che il pensiero totemico e i sistemi di classificazione cosiddetti nativi impedivano la formazione di qualsiasi possibilità di categorizzare in maniera storica gli eventi di una comunità. E quindi da questa concezione Levi Strauss pensava di poter ricavare una dicotomia che va a definire il tempo e soprattutto lo spazio in cui il tempo si realizza, che è la differenza, la dicotomia, anzi, tra le società, senti, l'emilianità è un problema, società calde che comprendevano i gruppi sociali in possesso del senso diacronico degli eventi, quindi consapevoli dei processi di mutamento, di cambiamento, dello scorrere, e le cosiddette società fredde, le comunità che ignoravano il divenire e non riuscivano a concettualizzarlo, perlomeno come lo concettualizziamo noi, quindi questo perché? Perché erano legate al passato e alla tradizione. E quindi fino ai primi anni 70 del Novecento sono stati tantissimi gli antropologi che hanno pensato fosse giusto analizzare e schematizzare i concetti in maniera dicotomica. Però negli ultimi anni hanno cominciato poi anche a sostenere l'idea di una tensione indissolubile, dicono in questo articolo dell'Istituto Euro-Arabo, tra la rappresentazione ciclica e lineare del tempo, ovvero il tempo non quantificabile, il tempo qualitativo, non è sconosciuto alla società moderna, ed è, anche se questa è fortemente, diciamo, si basa fortemente sui ritmi temporali quantizzati, e quindi sarebbe anche un'occasione questa per riscoprire questo tempo che abbiamo definito prima essere quello di Kairos, quindi dell'occasione. Tempo sfugit, ma anche il tempo è galantuomo. Però, forse prima, ce la facciamo ad ascoltarci un altro pezzettino? Certo, vado di Larsen con il brano Akin. Buon ascolto. Spingerò mia bocca, alle mie labbra. Devo mangiare, non potrò aspettare. Devo mangiare. Mi amerà dalla mia bocca, dalle mie labbra. Devo saperlo, non potrò dormire bene. Devo saperlo. Mi userà nel mio ventre, nelle mie gambe. Devo imparare, non potrò soffrire. Devo imparare. Ti manderò alla fine della tua vita. Spingerò nella mia bocca, alle mie labbra. Devo mangiare, non potrò aspettare. Devo mangiare. Mi amerà dalla mia bocca, alle mie labbra. Devo saperlo, non potrò dormire né bere. Devo saperlo. Mi userà dal mio ventre, dalle mie gambe. Devo imparare. Però alla fine della tua vita. Devo seguire, non potrò pensare. Devo seguire. Ti spingerò nella mia bocca, alle mie labbra. Devo mangiare, non potrò trascare. Devo mangiare. Ti amerà nella mia bocca, alle mie labbra. Devo saperlo, non potrò dormire. Mi userà dal mio ventre, dalle mie gambe. Devo imparare, non potrò soffrire. Devo imparare. Ti manderò alla fine della tua vita. Devo eseguire, non potrò pensare. Devo eseguire. Ti spingerò nella mia bocca, alle mie labbra. Devo mangiare, non potrò aspettare. Mi amerà dalla mia bocca, dalle mie labbra. Devo saperlo, non potrò dormire né bere. Devo saperlo. Mi userà dal mio ventre, dalle mie gambe. Devo imparare, non potrò più soffrire. Devo imparare. Ti manderò alla fine della tua vita. Spingerò nella mia bocca, alle mie labbra. Devo mangiare, non potrò più aspettare. Devo mangiare. Mi amerà dalla mia bocca, dalle mie labbra. Devo saperlo, non potrò dormire né bere. Devo saperlo. Mi userà dal mio ventre, dalle mie gambe. Devo imparare, non potrò più soffrire. Devo imparare. Ti manderò alla fine della tua vita. Devo seguire, non potrò più pensare. Devo seguire. Ti spingerò nella mia bocca, alle mie labbra. Devo mangiare, non potrò più aspettare. Devo mangiare. Mi amerà dalla mia bocca, dalle mie labbra. Devo saperlo. Mi userà dal mio ventre, dalle mie gambe. Devo imparare, non potrò più soffrire. Devo imparare. Ti manderò alla fine della tua vita. Devo seguire, non potrò più pensare. Devo seguire. Ti spingerò nella mia bocca, alle mie labbra. Thank you. Avete ascoltato un brano di Larsen, il brano si chiama Akin e il disco è Reverte, il 2002 mi pare, no, forse no, no. Comunque è una band che si è formata a Torino, è ormai storica. Il secondo disco, proprio appunto Reverte, è stato sì, del 2002, è stato prodotto da Michael Gire e appunto, cioè, il capoccia degli Swans, per intendersi, avete sentito prima il brano, è uscito appunto per la Young Gods Records, penso gli unici italiani che sono riusciti a essere prodotti da cotante etichetta. E tra l'altro il primo fu prodotto invece da Martin Bisi, che è un altro mastodontico delle produzioni dei gruppi abbastanza estremi, come appunto i Cop Shot Cop, gli Anzini, Sonic Youth, John Zorn, Fetus, insomma tantissimi. Quindi speriamo di rivederli presto in azione. E in questo disco i Larsen erano Fabrizio Palumbo, Marco Schiavo, Paolo Della Piana, Roberto Maria Clemente e Silvia Grosso. E andiamo avanti con l'ultimo intervento, perché siamo già un po' in ritardo. Poi l'ultimo brano, saluti, abbracci e Cotillon. Ma soprattutto tanta ansia che i Larsen ci hanno dato. Volevo ringraziare chi mi ha velatamente detto che sono la Patrizia Rossetti di Radio Wombat. Dunque, Patrizia Rossetti a parte, il tempo è galantuomo. Questa è l'ultima cosa che vi vorremmo dire, no? Ovvero, il tempo è galantuomo e significa che ristabilisce la verità, che ripara i torti, che medica ogni cosa, e dunque bisogna saper attendere. E abbiamo anche detto che si dice ammazzare il tempo oppure ingannarlo. Ora non è proprio la stessa cosa, perché diciamo l'intenzionalità alla base delle azioni non è la stessa. Un conto è ingannare qualcuno, un conto è ammazzarlo. Da che parte stiamo noi due? Da quella dell'ammazzarlo di sicuro, certo, anche 8 Hertz fa di sì con la testa. E quindi speriamo di ammazzarlo il più in fretta possibile. Oggi è giovedì 16, domani è venerdì 17, come dicevano oggi in una chat di amici, venerdì 17 di un anno bisestile, con un asteroide che sta velatamente mirando verso la Terra o lo ha già fatto, e domani parlerà di nuovo Conte durante una pandemia. Ragazzi, peggio di così, boh. E quindi vi salutiamo ricordandovi una cosa molto importante, il principio di Rockefeller. Non fare niente che non vorresti essere trovato morto mentre lo stai facendo. Pensateci su. E dunque vi lasciamo con l'ultimo brano, che è dei Massimo Volume. Aspettate, vi dico tutto. Massimo Volume, una band anche ormai storica pure loro. È tratto dal settimo disco, perché ne hanno fatti tanti. E il disco si chiama Aspettando i Barbari, uscito per la Tempesta Dischi nel 2013. Pensate che Stanzia era il primo, che era del 1993. Tornati nella formazione originaria di Terzetto, sempre caratterizzati ovviamente dai testi e dallo quasi spoken word di Emidio Clementi. E vi salutiamo così, con questo pezzo che è un po' triste in realtà, però ci unisce un po' tra tutti che non possiamo uscire. Come dissi settimana scorsa, non vedo l'ora di riabbracciarvi tutti. Grazie a Radio Wombat per queste puntate, per la diretta, che insomma c'è sempre più bisogno di radio in questo periodo, per far sentire un po' ai fiorentini e non cosa sta succedendo, ma anche farli svagare un po', in questo caso il contributo che posso dare io mettendo della musica, diciamo. Quindi grazie, noi ci vediamo dopo, c'è tra l'altro la puntata di 8 Hertz, però ragazzi non ce l'ho fatta a farne una nuova, quindi sentirete la replica di quella scorsa, che non era male, tutta un po' sull'elettro e l'elettro clash, synth punk e derivati. Ciao, a presto.